Vendo tutto di Matteo Caccia. Tra poco più di due settimane siamo a Riva del Garda. I racconti e i desideri continuano ad arrivare. Storie di abiti, di automobili, di biciclette e di orologi. Desideri di viaggio, di ringiovanimento, di patenti e di brevetti. Voi continuate a scrivere, io continuo a vendere. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato, dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti e stavolta è toccato a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo il necessario per una cerimonia religiosa. Ho traslocato e l'ho trasportato, ogni volta, senza mai riaprirlo. E sono passati 15 anni, lo stesso numero di anni che ho trascorso nella vecchia casa dei nonni. Tic, tac, tic, tac. E poi il silenzio. È giunto il momento di colmare la prossima era. Buongiorno a tutti, sono le 16:09, questa è Vendo Tutto, la radio si chiama Radio 24, io invece mi chiamo Matteo Caccia. Invece le 3 righe che ho letto sono il pezzo di un racconto che ha inviato Simona, per esattezza Simona Vellani, che partecipa al concorso Vendo Anch'io. È il racconto di un pendolo di cui lei vuole liberarsi, che porterà quindi a Riva del Garda, se sarà scelta tra le 5 finaliste. Io vi chiedo di continuare a inviare i racconti che continuano ad arrivare e Laura Faggin continua a stampare e archiviare, ormai è una cartelletta così, roba che... Così. Così, così. 800 24 00 24, 349 238 6666, per chiamare in diretta e per scrivere gli sms in diretta, ma soprattutto vendo tutto @radio24.it se volete partecipare al concorso. Vi ricordo velocemente come funziona: prendete un oggetto di cui volete liberarvi, scrivete un racconto di una pagina, lo inviate a vendo tutto @radio24.it insieme a una breve biografia e a un desiderio che volete realizzare. La redazione li seleziona, li legge tutti, ne sceglie 5 finalisti e sabato 19 giugno siamo tutti a Riva del Garda per scegliere il vincitore in una serata che adesso non sto qui a spiegarvi, però sarà sicuramente rock and roll, come dice Laura Faggin dall'altra parte. Concorsi, concorsi, concorsi letterari. So che non è facile mettersi in gioco, perché comunque quando uno scrive una roba un po' dà un pezzo di sé, ma soprattutto se non vince, e lo chiedo a Bonini che è un agonista come me, un po' ti rode, giusto? È anche per questo che noi quando partecipiamo ai concorsi, Rudy abbassa un pelo, quando partecipiamo ai concorsi non è che lo diciamo in giro, perché poi se vinci è più come quando fai l'esame all'università, non dici niente, torni a casa, ah mamma ho preso 25, bravo, ma non lo sapevo neanche, se invece non pigli 17 non lo dici nemmeno. Quindi io vorrei che voi faceste veramente outing quest'oggi e mi raccontaste tutti i concorsi a cui avete partecipato, perché io non ci credo che dall'altra parte di quelle casse in questo momento alle 16:11 non c'è qualcuno che, pensando ad un concorso, non confessi: sì, ok, anch'io ho partecipato a quel... Guarda, comincio io, il primo concorso a cui ho partecipato, perché poi qui si ride e si scherza. Avevo 12 anni e partecipai al concorso fotografico indetto dal comune di Romentino, il mio paese, che aveva come tema la mancanza di spazi per i giovani. Sono arrivato secondo, la foto era questa qua. Ero io con in mano un pallone da basket nel mio garage, tra l'altro in una giornata piovosa tipo di novembre, quindi con una luce che potete immaginare, con un pallone da basket in mano e di fianco un cesto per l'immondizia, che per chi no, fosse sveglio voleva dire che non c'era un campo da basket. Non vinsi io, vinse il mio amico Davide Perini, che invece fece una foto nello stesso garage mio, tra l'altro, credo, su tutte le biciclette di famiglia, incastrato tra le bici, come dire... Non c'è. È orribile dire come a dire, però come a dire non c'è spazio per andare in bicicletta. 800 24 00 24, 349 238 6666. Qualsiasi tipo di concorso, letterario che vanno per la maggiore, di poesia, ad esempio. Chi non ha scritto una poesia? Concorsi fotografici, ma anche concorsi di pittura, concorsi di bellezza. Quante Miss Spiaggia 1999 non sono all'ascolto? Non dovete avere per forza vinto, Basta solo, mettete una mano sul cuore, l'altra sul telefono come al solito e ammettete: sì, ok, l'ho fatto, poi non ho vinto, perché se avete vinto magari ci avete la foto in casa, lo sanno tutti. Ma anche concorsi per cani. Guardate, abbiamo stampato, se voi mettete concorso su Google, a parte i concorsi delle poste, che ormai non fanno più l'anima, ad esempio, ecco qua, allora, Miss Grand Prix è il mister più bello d'Italia, Puglia, scade a settembre, preparatevi. Poi ancora, Miss Alto Tammaro, o Tammaro, provincia di Benevento, Morcone, Tammaro, finalmente anche a Morcone, la bellezza è di scena, dice il claim del concorso. Miss Regione Campania e Baby, a Cogliano, provincia di Salerno, e ancora... Questa non l'avevo vista. Gatti e castelli. Ma cosa vuol dire Faggini? Gatti e castelli. Prima manifestazione amatoriale felina presso l'hotel V. Ah, vabbè, che la faranno in un hotel che ha un castello. Se avete un bel gatto, partecipate. Scade. Vabbè, niente. Miss piccolina carina. Vabbè, leggo solo qualche concorso letterario. Premio nazionale di letteratura e comunicazione L'America. Tutto attaccato. Premio poesia Cantina Valpantana. Non ce la posso fare a leggere tutte. Se avete partecipato a un concorso 80024 0024, oppure 349-238-6666, lo ammettete, mi dite anche non solo la posizione. Io l'ho detta la posizione, sono arrivato secondo allora, con una foto tra l'altro scattata da me a Davide Perini. Però ammettete, perché l'avete fatto quel concorso? Va bene mettersi in gioco. Però andiamo avanti, perché oggi però si vendono degli ingredienti per una cerimonia particolare, una cerimonia religiosa indiana. Per vederli, già si è scattata la bagarre, una sorta di concorso sul profilo Facebook. Andate a vederlo, è sulla pagina del sito radio24.it. Per sentire la storia invece, eccola qui. L'occorrente per cerimonia religiosa indiana. Scatola contenente il necessario per celebrare una cerimonia religiosa indù. Incenso, semi di lino, di arachide, cardamomo, coriandolo e kapur. Chiodi di garofano, 3 buste di polvere colorata, fili di cotone, sale grosso, un vasetto di miele, un'immagine religiosa. Ottima per chi è affascinato dalla religione fai da te o per deodorare l'ambiente. Valore commerciale $2.99, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. La cosa che più di tutto mi stupisce delle religioni è la loro capacità di far fare agli uomini delle cose che quegli stessi uomini, se non credessero in quella o in un'altra cosa, non avrebbero mai fatto. Se ad esempio chiedessi ad un mio amico di portarsi sulle spalle una statua di 5 quintali, così, perché mi piace l'idea, chiaramente non lo farebbe mai. Se invece si trovasse in una processione religiosa in un paese molto devoto, non vedrebbe l'ora di farlo. Quando sono stato in India, la cosa che mi ha colpito di più di quel paese incredibile è stata l'attenzione e la cura con cui i fedeli celebravano le cerimonie religiose. Un giorno, ad esempio, mi trovavo in una città che si chiamava Chidambaran, è una città che si trova nella regione del Tamil Nadu. Chidambaran è una delle 5 città-tempio dedicate al dio Shiva. Shiva è una divinità curiosa perché rappresenta un dio distruttore. E prima di allora ne avevo sentite tante sulle divinità, ma non che ce ne potesse essere una che demoliva tutto quello che trovava. Sì, certo, anche al catechismo mi dicevano che se a Dio girano i 5 minuti può arrabbiarsi parecchio, però non fino a quel punto lì. Shiva invece fa parte di una trinità, che è un po' sul genere di quella cristiana, che l'induismo chiama 3 forme, che sono Brahma, il costruttore, Vishnu, il conservatore, e Shiva, appunto, il distruttore. Provo a spiegare in un minuto chi è Shiva e perché mi sta simpatico. Allora, Shiva rappresenta la forza che riassorbe i mondi alla fine del loro ciclo. È l'aspetto divino che conclude i cicli di vita e di morte, insomma, è quello che chiude le cose, alla fine. Lui nella trinità indiana è fondamentale, perché gli altri due invece possono costruire e conservare, giusto? E questo concetto di trinità, non so perché, però mi piace. Forse perché la trovo più leggibile di quella cristiana, dove non si capisce mai perché siano in 3. Roba che da piccolo, nell'ora di religione, chiedevo sempre perché non bastassero il padre e il figlio, no? Cioè che tutto al più Maria come terza, perché il ruolo dello Spirito Santo non l'ho mai capito. Nelle immagini che lo rappresentano, Shiva invece è seduto a gambe incrociate. Sai che novità. E ha un cobra attorcigliato intorno al collo. Però c'ha sta faccia pacioccona che ispira un sacco di fiducia, di simpatia. Nonostante tutto, nonostante la storia della distruzione. In più c'è anche una fidanzata. Si chiama Parvati. E anche questo me lo rende simpatico. Tutte queste cose, però spiegate molto meglio, ovviamente, quel giorno, in India, me le ha raccontate un bramino. Un sacerdote indiano. Replenish your blossom in Bacchanal, babe, and let regret end at the start of the day. Don't take no secrets back to your grave. Let everyone know. Let everyone know. Angelica, Angelica, Angelica, Angelica. Il bramino parlava un inglese molto musicale. mi portò in giro per il tempio spiegandomi chi era Shiva e perché era stato consacrato signore della danza cosmica, così mi disse. Il tempio era enorme, grande qualcosa come 22 ettari. Più che un edificio religioso, sembrava un'enorme casa famiglia. La gente ci transitava, ci viveva, ci lavorava, ci mangiava. Le donne indiane avevano i capelli adorni di fiori e tutti sembravano incredibilmente sereni. Prima di salutarmi, lui prese un sacchetto di stoffa, ci mise dentro un po' di polvere colorata, un bastoncino di bambù e me lo regalò, dicendomi che per celebrare Shiva erano sufficienti quegli ingredienti lì, anche a casa mia, in Italia, ovunque volessi. Lo ringraziai e pensai che non avrei mai celebrato nessuna cerimonia, però quel sacchettino mi avrebbe risolto un problema, il souvenir. Solo che quando dopo 2 settimane presi un aereo per tornare in Italia, quel sacchetto non me lo fece rimbarcare. Io cercai di spiegare di Shiva, della sua fidanzata, tutte quelle cose religiose che di solito quando le dici dà la sensazione di essere una persona per bene, ma niente, il tizio della sicurezza fu irremovibile. Tornai in Italia e me ne dimenticai. Poi, un paio d'anni dopo, tutta questa storia mi tornò alla mente. Ero su un taxi a New York. Sì, lo so che detto così sembro Beppe Severgnini, però alla fine nella vita sono stato in un paio di posti, non di più, questi due qua. Insomma, ero su un taxi. Come sapete, i taxi in quella città sono guidati per lo più da asiatici e da afroamericani. Nel mio caso, il tassista era un indiano Sikh. Non che sappia niente della religione Sikh, ma pure un bambino riuscirebbe a riconoscerli, ci hanno sempre un turbante in testa. Sul cruscotto lui teneva un'immagine di Shiva e fu più forte di me. Gli dissi che ero stato a Chidambaran e che avevo visitato il tempio di Shiva. Lui quasi si commosse, mi disse che era di Chennai, la vecchia Madras, a 300 km da Chidambaran, che conosceva benissimo quel tempio. Mi disse che tutta la sua famiglia viveva ancora là e che lui aveva in mente di tornarci presto. Mi fece un lunghissimo discorso sull'induismo, sulla bontà degli indiani, e disse anche che Shiva era sempre con lui e lo proteggeva durante le ore di lavoro nel traffico. Io pensai che se a proteggerlo era il dio della distruzione eravamo messi bene, però non glielo dissi perché mi resi conto subito che era una vaccata. Gli raccontai però del bramino e del regalo che mi fece e che avevo dovuto lasciare in aeroporto. Quando sceso dal taxi mi disse che se volevo respirare un po' di atmosfera indiana c'era una zona nel Queen, a nord di Manhattan, dove la comunità indiana era numerosissima. Insomma, per farla breve, qualche giorno dopo, prima di partire, andai nel Queens e visitai un mercato indiano. Mangiai cibo pieno di curry e soprattutto entrai in un negozio di gadget religiosi e comprai questa scatoletta, con il necessario per le cerimonie religiose. Contiene incensi, polveri, semi di ogni tipo e un'immagine di una divinità che non è Shiva, ma è comunque cicciottello a gambe incrociate. Ma soprattutto, quando la apri, l'odore che viene fuori ti fa sentire nel tempio di Chidambaran. Eppure, come al solito, nonostante tutto, questa scatola è in vendita. Il suo valore è di $2.99. La base d'asta, in euro, sono i soliti 99 centesimi. Se avete partecipato ad un concorso e volete ammetterlo e raccontarlo, 80024-0024. Punjab BMC, we don't stop. It's your boy Jay-Z, we don't stop. Nigga ROC, we won't stop. Tera ik sur jan shil nain ho gaye, sikh ke adama shir mil nain ho gaye. Bounce, bounce, bounce, yes. Tera ik sur jan shil nain ho gaye, sikh ke adama shir mil nain ho gaye. Sab ke vendo anch'io, si chiama il nostro concorso. Per partecipare, vendo tutto @radio24.it, e invece per capire come partecipare andate sul sito radio24.it, nella pagina di vendo tutto in fondo trovate tutto il regolamento. 80024 0024. Invece sentiamo quanti e quali concorsi hanno partecipato i nostri ascoltatori. Andiamo a Verona da Beppe. Pronto Beppe? Ciao. Ciao, buongiorno, come va? Ciao, sono Beppe di Toritto, in provincia di Bari, che vive a Illas, in provincia di Verona, e che lavora a Verona. Benissimo, io sono Matteo, vengo da Romentino, vivo a Milano, in provincia di Milano. Senti, a quale concorso hai partecipato, Beppe? Allora, io adesso ho 52 anni, quindi una trentina di anni fa ho partecipato a tanti concorsi, faccio teatro, faccio un po' di cose. Sì. Ma quello di cui ti voglio parlare è quello più divertente, perché risale a una trentina d'anni fa, forse anche di più. A Cassano delle Murge, in provincia di Bari, si era fatto un concorso di poesia dialettale. Io facevo parte di una compagnia teatrale che faceva prevalentemente teatro popolare all'epoca. E quindi hai colto subito la palla al balzo. Mi sono scritto la mia bella poesia, non so neanche che fine ha fatto, in dialetto torittese, e ho partecipato. Mi arriva una lettera a casa, lei si è classificato quarto. Io ho cominciato a fare salti di gioia, perché? Perché già da allora io gareggio per arrivare primo, ma se non arrivo prima, comunque sono contento di aver gareggiato primo, no? Sono certo. Contento di aver gareggiato. Per cui quella filosofia che il secondo è il primo degli imbecilli, il primo se non ci fosse il secondo non avrebbe ragione di essere. Ok, insomma Beppe, arrivi quarto e cosa succede? Arrivo quarto e mi invitano alla manifestazione della premiazione, no? E fino al quarto l'autore, il poeta, leggeva la propria poesia. Allegata alla lettera che mi mandano c'è la poesia, no? Io la leggo e non è la mia. Ah, ti hanno rimandato la tua poesia che però non era la tua. E la tua non che era la mia. E cosa ti eri posizionato tu? E allora cosa ho fatto? Allora non c'erano i telefonini, sai, tu chiamavi sul telefonino e vai. Sì. No, sono andato a Cassano il giorno della premiazione, no? E ho detto, sentite, io vi ringrazio di avermi dato il quarto premio, ma l'avete dato a questo signore che non sono io, perché poi lì funziona. Insomma, Beppe, a che punto eri arrivato tu della classifica? Primo. E cosa hai vinto allora? Non ho vinto niente, sai perché? Perché quando ho conosciuto quello che aveva vinto il primo premio, sì, no? E ho visto che la sua poesia era la mia, ci siamo fatti una risata, ognuno ha letto la poesia dell'altro e alla fine, durante la manifestazione, abbiamo detto, sentite, non sappiamo come, però la sua poesia è la mia è la sua, no? Cioè, ci abbiamo riso solo. Vabbè, uno scambio. Coppa, tutto. Beppe, scusami, poi devo chiudere, ti ricordi il titolo della tua poesia? No, no. Sono neanche quello, vabbè, sono passati 30 anni. Grazie mille Beppe, buona giornata. Torri tese, certo. Fosse qualcosa tipo niente, va avanti. Se non lo lasciamo parlare, andiamo avanti. Ciao Beppe, grazie. Andiamo a Firenze da Massimo. Pronto Massimo? Sì, ciao. Ciao, buongiorno, piacere mio. Senti, a che concorso hai partecipato tu, Massimo? No, mi è venuto da ridere perché ti ascolto sempre. Hai appena nominato il concorso Cantina Valpantena. Sì. A cui io ho mandato la poesia. Mica lo organizzi tu, Massimo. Cioè, la voce che c'hai, oppure no, che vieni qua mi fai una faccia così. No, ah, no. Ok. Però lo sai qual è il primo premio? Qual è? Sono 1200 euro in olio e vino. Ah. Beh, insomma. Insomma, cioè, ma rispetto al tenore dei premi che di solito promettono, insomma. Ma scusami, tu Massimo, ci partecipi anche quest'anno? No, io solo quest'anno. Ah. Ho partecipato ora, la scadenza è oggi. Ma dai, sì. Cosa hai mandato? Scusa, ce l'hai da leggercela? No, senti, no. Ti vergogni, certo. Il titolo almeno, Massimo, dai, il titolo. Siccome il tema è la terra, quindi il titolo è la mia terra, poi, vabbè, ti vedo un po' arenato. Massimo, facci sapere come va il concorso, mi raccomando. Buona giornata, buona grazie. Ciao, alla prossima. Sentiamo anche Aurelio da Milano, altrimenti non ne sentiamo mai. Pronto, Aurelio? Sì, buongiorno, Matteo. Ciao, buongiorno. Nei miei vari periodi, perché ho 48 anni quasi, sì, ho avuto dei periodi, no? C'è, sì, stato il periodo della pittura. Sì, sei Picasso praticamente. Picasso praticamente. Sì, diciamo. Ho partecipato a un concorso che organizzava un centro culturale. Sì. Io ho portato il mio quadro, che era piccolino, 25x30. Sì. Quando l'ho presentato mi hanno detto guardi che non è un concorso per fotografie. Ah, ok. Senti, ci sai dire quanto sei arrivato? No, perché non hai partecipato proprio. Sì, ho partecipato. E sei arrivato? Io sono arrivato secondo dietro al presidente che organizzava. Ah, ok, c'era un leggero conflitto di interessi. Grazie Aurelio, ciao, alla prossima. Grazie a tutti, a Laura Faggina, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Fabio Cantadore. Gli ingredienti, quelli di cui ho parlato, sono sul sito radio24.it. Domani invece vendo un paiolo. Se partecipate ad una cerimonia, invece voi godetevela, che alla fine una cerimonia è sempre una cerimonia. Love, love, love, wherever you get it.